Le strade della comunicazione. La società globale, il consesso sociale che va al di là delle barriere nazionali, necessita sempre più di professionisti della mediazione linguistica e culturale, non solo interpreti e traduttori, ma anche figure professionali che spazino in campi diversi, talvolta molto distanti l'uno dall'altro. Ecco il professionista di cui parliamo oggi. Interprete di trattativa o di comunità? Una nuova professione in cui l'attività di mediazione linguistico-culturale è ampia e variegata. Una figura il cui campo professionale può essere quello commerciale e aziendale, ma anche, alla luce dei costanti e crescenti flussi migratori, allargarsi agli ambiti sociali e sanitari. Una nuova professione la cui richiesta del mercato è in netta crescita. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza dell'Università Yulm, www.yulm.it.